Paolo. Sai, mi hanno detto Pao, io poi l'ho sganciato perché credevo che era una signoria. Paola, sì, Paolo, sì. Come va? Bene, grazie. Bene. Sto studiando, poi ho sentito il concorso e ho deciso di chiamare. Guarda, perché so la soluzione. Sai la soluzione? Sì. Sai la soluzione, attenzione, fermi. Te l'hanno suggerita, dai, è inutile. No, con un processo filosofico. Dai, cosa fa? Ho scoperto che la moglie sta mettendo del sale sopra degli hamburger fatti con la carne del marito. Con la carne del marito? Ma chi è Bobbit il marito? Ma vabbè, dico, dai, ma che schifo. No, non è quella, potevi immaginartelo già comunque. Ascoltami, cosa fai di bello nella vita? Studio. E ancora studi? Mancano 15 giorni alla fine della scuola. Magari, io devo fare anche la maturità, quindi hai voglia, però dopo, una volta, dopo finita, è una pacchia. Ti fermi o vai avanti? Penso di andare avanti, ma il mio futuro è ancora oscuro, non so cosa fare. Come il mio, cioè non è che cambia tanto. Ma ascolta una cosa, ma chi te lo fa fare andare avanti? Vai a divertirti, basta studiare, non sei stufo? Però servono anche i soldi per... Non è che studiando non li faccio, però... Vabbè, comunque guarda, ti posso dire una cosa, studia perché è meglio così, perché una volta che vai a lavorare, lì iniziano i guai, vabbè, capito? Infatti, anche questo Te lo dicono anche i tuoi genitori questo? Come? Te lo dicono anche i tuoi genitori questo, una volta che lavori, Sì, effettivamente è vero. Anche i miei genitori me lo dicevano, non ci credevo, e poi ho detto alla fine che non avevano ragione, ci si diverte un casino! Diverte un casino a lavorare! Ascolta, ti dedico la canzoncina di questo bambino. Stupenda? Sì, allora la balli insieme a me, Sì, ok. Va bene, ciao! Poi alzo anche lo stereo, ciao! Alza lo stereo! Alza! Più forte! Fammi la... Siamo lanciatissimi. Ormai non sappiamo più cosa fa la signora, ma per adesso balliamo! Bellissimo. Allora, abbiamo deciso di svelare cosa fa oggi la signora. Il quiz lo rinviamo a domani. Cosa sta facendo la signora? Semplicissimo, sta spalmando la crema sulla torta che dovrà dare il 31 di maggio a Marco qui sotto via Locatelli dalle 2 alle 3, dove tutti voi ci sarete e dove faremo grande festa al nostro direttore generale di Rock FM. Domani si gioca ancora.